Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, A me fa ridere il fatto che ci siamo lasciati il 31 con mio amico Charlie Brown e riapriamo con Charlie Brown, perché in realtà l'attualità ci impone ancora di parlare della notte del Capodanno. Mi fa un po' sorridere, è un segno dei tempi, oggi i giornali sono intrisi della polemica sul servizio pubblico perché ha commesso l'onta insanabile di far brindare gli italiani con qualche secondo di anticipo rispetto all'ora di Greenwich, e in realtà ancora peggio, ha fatto passare in sottopancia la bestemmia di El Cobra, un ragazzo tarantino, un liceale tarantino che ha mandato un bestemmione via SMS pensando che la RAI mai l'avrebbe fatto passare. In realtà la RAI, che affidava tutto a un povero funzionario che oggi lo stanno frustando nei sottofondi di Viale Mazzini, buttando aceto sulle sue ferite, dice: ma che c'entro io, mi occupo di commerciale. Ho cassato centinaia di SMS di tutti i tipi, mi sarà sfuggito anche questo. Potranno metterci un giornalista a decidere editorialmente qual era l'SMS che poteva passare per l'abbonato in prima fila e quello che in realtà non doveva passare. È un tema che secondo me tutti stanno affrontando da un punto di vista politico. Chi si straccia le vesti? Ah, dove siamo andati a finire? Questa la RAI, vogliamo le teste, quanto guadagnano i dirigenti, quante persone erano andate in trasferta a Matera per fare quell'indegna gazzarra che doveva celebrare Matera come capitale della cultura, quando in realtà c'era Rocco Papaleo che faceva rappresentava una Lucania che soltanto lui si è visto guardandosi allo specchio la mattina. Sono rimasti tutti scontenti, ma la RAI è sempre stato questo, scusate, perlomeno dagli anni 70 in poi questo è stato, ne parla una persona che l'ha frequentata ampiamente, che ancora ne porta le ferite sanguinanti dell'onta di aver mantenuto una sua identità all'interno di un'azienda il cui compito principale è quello di adattarsi, comunque di essere camaleontica con il cambiare dei tempi, e nel questo camaleontismo, adesso che è il momento di ripulisti, di cambio di guardia, naturalmente si deve creare la querelle, il caso. Vediamo di analizzare il caso nelle singole parti, e vorrei essere confortato dall'appoggio del pubblico. Conosco la capacità di rappresentanza del nostro pubblico di darmi un'idea di quello che è la percezione media dell'italiano rispetto a questo evento, per quello che si scrive sui giornali è altra cosa rispetto alla realtà. Cominciamo sui 30 secondi, 40 secondi di ritardo. Io ho messo anche su YouTube un filmatino in cui io stesso stavo davanti alla televisione con Amadeus. Perché? Perché è una cosa talmente cialtrona, talmente trash, che non posso più farne a meno. E mi è partito lo spumantino addirittura un 15 secondi prima di Amadeus, ma anch'io avevo fretta perché volevo uscire di casa. Quindi prima era mezzanotte, prima andavo a spasso per Roma a vedere il concerto, perlomeno a far casino per strada, invece che starmene lì con lo spumantino e il panettoncino. Ma fondamentalmente, ancora, chi pensa che a scandire i tempi liturgici della propria vita sia la televisione, l'antica televisione, la televisione che dal 1954 è sempre sostanzialmente uguale, è una sorta di luogo in cui vengono stabiliti i tempi fondamentali, le cerimonie che devono dare il senso dello scorrere di un anno, quindi un tempo ciclico, a le persone che stanno dall'altra parte dello schermo. Chi ancora pensa che debba essere lo spumantino stappato dal palco della grande finto veglione di Rai 1, quest'anno per organizzarlo centinaia di persone in trasferta sono andate su Matera eoni prima per organizzare cosa? Sempre la solita cosa, ballerine scrosciate che sballettano, conduttori debosciati che fanno battute che non fanno ridere nessuno, grande sfoggio di lustrini, trick e track, fuochi artificiali, insomma questo è. Ecco, chi ancora pensa che questo sia il momento che deve dare la qualità del proprio tempo, può preoccuparsi per quei 10 secondi, 15 secondi di ritardo, è già indietro di 10 anni rispetto al mondo che sta da un'altra parte. Questo è il primo punto che sottopongo all'attenzione degli ascoltatori. Dov'è lo scandalo? Sì, chiaro, ricorda qualcosa di molto doloroso, che ci fa molto male, che è lo sberleffo più crudele rispetto alla ritualità del Capodanno. Lo zampone con le lenticchie! Oh, c'è tanto zampone! Alle 10:30 scarse, finita la cena, il maestro Canello, che aveva un altro impegno in un altro veglione, barò bassamente annunciando al microfono. Attenzione! Mancano 3 minuti a mezzanotte! Rimettete gli orologi, preparate lo spumante! Aspettate! Meno 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! E mezzanotte! Auguri, auguri! Dai! Erano le 22:30, il maestro Canello aveva messo 2 o 3 serate nel suo impegno e quindi per fare più serate anticipa la mezzanotte alle 10:30. Ecco, vi siete sentiti anche voi come gli impiegati di Fantozzi, presi in giro dal maestro Canello, che in questa fase è il grande demiurgo della RAI, che vi ha anticipato il Capodanno, qualcuno dice per un bieco calcolo, per fregare Mediaset di qualche secondo e quindi beccarsi quei pochi punti di share che determinano che l'ascoltatore in prima fila con l'apparecchietto e l'audio della casa va dove c'è il primo Capodanno, naturalmente si sposta, e questo bieco calcolo vi ha rovinato la vita. Poi c'è il fatto della bestemmia, ma dobbiamo dare le informazioni del traffico, intanto riflettete. 800 24 00 24, quanto realmente, sostanzialmente, crudamente il vostro Capodanno è stato inquinato dagli errori di Rai 1? E ve lo dice uno che ha tutte le ragioni personali, oggettive, per avercela con la Rai, ma in questo caso sinceramente ognuno ha la televisione che si merita. Però devo dire, in questo caso secondo me stiamo parlando di una sorta di mondo parallelo, una sorta di residuo di tempo passato. Non stiamo parlando del mondo che stiamo vivendo noi, quindi perché scandalizzarsi? Perché prendersela? Quindi abbiamo già visto che sul tempo del Capodanno ritardato c'è poco da prendersela, perché chi per facezia, o perché ci crede veramente, o perché per lui quella è l'unica vera chiave del tempo che sta vivendo, conta sullo spumantino stappato su Rai 1 per dare la fine e l'inizio al suo nuovo anno, merita naturalmente di avere un tempo ipotetico, un tempo non condiviso da tutti. E questo è il primo punto. Il secondo punto va sul bestemmione. Il bestemmione è una cosa brutta. Bestemmiare anche quando scappa non è una bella cosa, è un momento di inciviltà, fa sorridere, è un atto di fede maledetto e disgraziato che viene tollerato e tollerabile in contesti arcaici, in mondi passati, in civiltà contadine in cui si bestemmiava per risvegliare l'attenzione del Dio in cui si credeva profondamente verso alcuni disastri naturali che si credevano inconcepibili. Curzio Malaparte parla di contadini toscani che fucilavano il santo che portavano in processione, lo affogavano nel fiume se andava male il raccolto, ma era un atto di fede estremo. Oggi abbiamo perso le radici di tutto questo. Chi bestemmia è semplicemente un povero coatto, un povero burino, e un povero coatto e burino è senz'altro Cobra, lo studente di Taranto che ha mandato la bestemmia. Lo è però, diciamo, con una malizia che il vecchio mandrappone della RAI non conosceva. Hanno un software automatico che seleziona le parolacce. Diciamo, c'è un algoritmo, tutte le volte che vede scritto brutto, maiale, porco, zozzo, puttana, tutte queste cose qua, le taglia. Poi c'è un signore, poverino, non c'ha nessuna colpa, è quello che adesso stanno frustando con il gatto a 9 code nei sotterranei di Viale Mazzini, alla denominazione del santo innominabile nome del Padre Eterno, non ha scritto una parolaccia, ma ha messo una di quelle iconcine che normalmente noi usiamo quando ci mandiamo dei messaggini, che ci sono di tutti i tipi, c'è la pecorella, c'è il fiorellino, c'è il cetriolo, ma c'è anche il maiale. Quindi ha messo questo disegnino del maiale, e che l'algoritmo non l'ha riconosciuto, perché è una macchina, è stupida, non è intelligente. Il disegnino del maiale non lo legge, se tu scrivi maiale l'avrebbe visto. Ecco tutto qua. Antonio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ascolti, sono No, d'accordo, d'accordissimo con quello che dice. Da dove chiama lei, Antonio? Io chiamo da Taranto, dalla provincia di Taranto. Quindi da lì è partito l'orrenda bestemmia? Proprio da qui è partito. Ma poveretto, un ragazzo, ma che dice che era triste, era solo. Era arrabbiato perché sì, i suoi amici erano andati alle feste e l'avevano lasciato solo e lui con qualcuno se l'è presa. Può darsi che era pure ubriaco, chi lo sa? Sì, ma ci ha anche provato. Cioè, vediamo che succede se mando una parolaccia, una bestemmia alla RAI, vediamo se la filtrano. Quando ha visto passare il suo porcellino rosa nel sottopancia, gli è sembrata una cosa, ce l'ho fatta, ho scardinato il sistema perfetto della RAI. Ma pensate se Cobra di Taranto può mettere in crisi oggi, si parla di crisi di governo, la bestemmia apre le porte RAI a Matteo, sembra quasi una sorta di meccanismo vigliacco per scardinare la dirigenza RAI e per mettere un ricambio favorevole al governo. Ora, non credo che anche la più profonda malizia politica e machiavellica arrivi a questo, non credo che Cobra sia in realtà un agente segreto che nella base missilistica di Taranto sotterranea ha mandato maialini emoticon per cambiare le sorti della RAI. Lei come la vede? Ma guardi, io la vedo esattamente che siamo un paese che sta proprio, non alla deriva, è già naufragato. Vabbè, anche questo è il luogo comune, via. Elevi un po' il suo giudizio. Allora, mi dica, visto che lei sta a Taranto, la scaturigine prima di ogni scandalo, la città maledetta, che come Sodoma e Gomorra sarà coperta da un fiume di lava e di fuoco perché Cobra ha mandato il maialino emoticon alla RAI. Lei pure però a mezzanotte stava lì con la bottiglietta davanti a Amadeus che stappava la bottiglia. Ma io stavo in famiglia, io non sono più un giovincello che va... Quanti anni ha lei? Quanti anni va in... Io ho 56 anni. Ma che 7-8 anni quindi... meno di me, ma come dire un giovincello? Va beato lei. Credo che da fa, quindi... spararmi allora. No, dico soltanto che sono cioè la penso completamente... in modo diverso da tutta vabbè, secondo lei non è poi così grave i 30 secondi di ritardo, vero? Ma assolutamente no, chi se ne importa? Assolutamente no. Se guardiamo questo dobbiamo non lo so, spaccare il pelo in due in ogni situazione, in ogni circostanza. Ma diciamo la verità, a quell'ora l'italiano medio era già talmente ubriaco, satollo di lenticchie, cotechino, manicaretti, stava lì con il rutto in canna, ma che gliene importa 30 secondi prima? Meglio ancora, capito? Tutto guardi, sommato. lei è un fenomeno, l'ascolto sempre. Mi piace avere qualcuno che mi ama a Taranto, quindi sono contento. Nel resto dell'Italia ancora non lo so, mi è arrivata questa mattina una lettera così piena, densa di insulti, manoscritta da un signore del nord Italia, che così questo almeno ribilancia. Mauro, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io mi chiamo da Caserta. E le volevo segnalare una cosa ben più grave rispetto... Sì, lo so, la più grave di tutte, in effetti è vero. Sì. Mi hanno spoilerato Star Wars, nonostante non fossi non stessi guardando il programma, però l'ho saputo ieri. Quella è stata ancora più vigliacca. Ma lei ha saputo dai giornali, sì. Però non l'ha visto in televisione. No, su internet, ho visto la foto su internet e purtroppo ho saputo il finale. Quindi però vedi che è un meccanismo perverso. Il poveretto che ha voluto fare lo spoiler di Star Wars, cioè spiegando cosa accadeva, poi lo sanno anche i sassi ormai, cioè mio figlio già lo sapeva. Me ne ero tenuto lontano però. Il fatto che sia stato pubblicato poi su tutti i giornali, ogni giornale, lo spoiler è diventato una sorta di meccanismo contaminante, ogni giornale ha contribuito allo spoiler alla fine, tutti oggi sappiamo come va a finire un film, lo sapevamo anche prima comunque, perché i giornali hanno ripetuto quello che è accaduto in televisione. Però io vorrei passare al secondo punto dolente. Abbiamo già visto che il tempo ritardato fa parte del ritardo temporale congenito e genetico di ogni italiano che si affida alla televisione come faro indicatore dei propri tempi, quindi non è una cosa gravissima, non troviamo sia una cosa grave. Sulla bestemmia che passa, due sono gli ordini di pensiero. Primo, la gravità della bestemmia. Ora, nella televisione italiana si può dire di tutto, si è detto di tutto, ma ancora la bestemmia rappresenta un unicum. Pensate che nel più cialtrone e nel più scellerato dei luoghi della rappresentazione dell'umanità deformata della televisione, che è il reality show, gli unici cacciati via, bollati da ignominia, scomunicati, portati nel limbo estremo dell'umanità, sono i tre o quattro poveracci a cui è scappata una bestemmia. Ancora sono segnati come persone che non potranno mai più entrare in televisione. Questo perché? Siamo in un paese laico, in teoria la bestemmia nella sua orripilanza, che, di cui ho già espresso il mio parere, dovrebbe essere comunque assimilabile alle tante manifestazioni di inciviltà, ma l'educazione alla bestemmia rimane ancora qualcosa di profondamente singolare. Perché? Perché ancora all'interno della televisione italiana esiste un senso quasi superstizioso di sacralità, di cui la bestemmia sembra infrangere delle regole che sono ancora superiori ad ogni regola scritta. Ancora sentono in sé quella sorta di odore di sacrestia su cui è stata fondata la parte migliore della nostra televisione di Stato, e ancora la bestemmia fa paura. Addirittura l'Osservatore Romano si è scomodato per stigmatizzare il fatto che l'operazione di Cobra di Taranto, un povero ragazzetto liceale sfigato che passava da solo il Capodanno, e giustamente per questo era incazzato, manda il maialino via emoticon, via SMS, e si scatena un disastro. Ma ammesso che siate convintissimi che esista un Padre Eterno, vindice, e che ha dettato le tavole della legge a Mosè, ma pensate che possa essere così piccolo e così meschino da arrabbiarsi per il emotico maialino del povero Cobra di Taranto? Giuseppe. Sì, buongiorno. Buongiorno, dottore, come sta? Ma tiriamo avanti, sente un po', la voce è malferma, però sono stati giorni difficili che mi hanno provato, come sempre accade. Allora, lei, credo che io lei ci sia già sentito altre volte, io sono profondamente laico, quindi non ho problemi. Ma laico non vuol dire miscredente, laico vuol dire avere uno spirito laico. Che poi uno può nella vita credere a quello che vuole. Laico, proprio laico, quello che sta dicendo lei. Quindi per me è una maleducazione bestemmiare, ma la cosa la chiudo lì. Per me è un pochettino scandaloso continuare a parlare, ma basta, parliamo di altre cose, sono problemi più grossi, è una sciocchezza, no? Sì, però il mio lavoro è proprio questo, il mio lavoro è sottolineare le abnormità che molte volte... È quello di girare la frittata, fa bene girare la frittata. Ma no, io cerco di far riflettere, girare la frittata è immeschinire quello che è il mio lavoro, è un lavoro che faccio seriamente, ci metto impegno, con me si impegnano le persone che stanno assieme. Io questa mattina vedo i giornali, vedo che l'argomento politico del giorno è la bestemmia e 30 secondi di Rai, e cerco di riflettere assieme agli ascoltatori quanto questo rappresenti, secondo me, una sorta di divertente abnormità. Io sulle abnormità divertenti molte volte amo soffermarmi, ma vorrei passare a un punto. Prendo atto il fatto che lei dice inutile parlarne, è inutile sopravvivere, allora è inutile respirare la mattina, è inutile guardarsi intorno, è inutile discutere. Non trovo che sia assolutamente inutile riflettere molte volte su abnormità che passano attraverso il mondo della comunicazione, che noi prendiamo così come se fossero cose ineluttabili. Non è ineluttabile, ma vorrei riflettere ancora su un altro punto rispetto proprio al passaggio, alla contaminazione fra il mondo digitale e la cultura digitale che viene espressa anche da Cobra di Taranto e la televisione, che è l'antitesi ad ogni idea di condivisione, di pensiero digitale, di novità nel campo della comunicazione. Ma questo lo faccio tra qualche istante, perché dovendo dare io la linea ai 29 e mancando soltanto 20 secondi scarsi alle 12:29, sto menando il camperlaia, quindi mestando l'acqua nel mio paiolo, aspettando che arrivino fatidici i 29 per prendere questo argomento. Il numero di telefono è 800240024, chiamate su questi due punti: quanto è stato cambiato il vostro Capodanno da questa sorta di cataclisma spazio-temporale dei 20 secondi di Amadeus che vi hanno anticipato la festa del nuovo anno, e quanto vi sentite profondamente intrisi del peccato originale di cui naturalmente si fa portatrice l'umanità intera, perché Cobra di Taranto ha mandato un maialino emoticon via SMS pensando che Amadeus mai l'avrebbe fatto passare nel suo gusto sotto pancia. Ci siamo, a tra un istante. .800240024, stiamo cercando di analizzare nelle singole specifiche parti che lo compongono il mostrum di Capodanno di cui oggi si sono affaticati tutti i giornali a dare contezza e a tradurre in opinioni. Devo dire, con mia grande sorpresa, onestamente, ma una delle più lucide opinioni che ho visto, proprio espressa da un consigliere di amministrazione RAI, strano ma è così, è Rita Borioni, consigliere della RAI, che dice una cosa sacrosanta: mandare gli SMS in diretta sa tanto di radio anni 70, a che serve, cos'è, non è sintomo di novità. Se la prende con gli autori della RAI, i mistici autori della RAI, che sono signori che ormai vanno per i 90 anni, che guadagnano un pacco di soldi e fanno venire delle brillanti idee. Si siamo moderni, mandiamo il crawl sotto che scorre con gli SMS, che è una cosa moderna. Sono ancora gli SMS. Chi si manda più gli SMS, onestamente? Da quando c'è WhatsApp, quando ci sono altri tipi di messaggerie, l'SMS è una cosa un po' obsoleta, ma la RAI ancora sta all'SMS. Mandare gli SMS fa tanto di partecipazione, di televisione 2.0, di linguaggi che si contaminano, è una cosa antichissima, capito? In realtà è da vecchi. Mandare 150.000 SMS che vanno filtrati, che dicono ciao mamma come stai sotto, non sa di nulla, non è ancora la soluzione di quella sorta di equazione di cui difficilmente si vedono dei risultati concreti, che vuol far convivere il vecchio mondo della comunicazione unilaterale rappresentato dalla televisione, che è ancora qualcosa di sacrale, è ancora una realtà altra, è ancora il luogo di accesso nonostante tutti i format di reality show, di accesso privilegiato. Andare in televisione significa essere illuminati una sorta di luce divina che dà saggezza, dà celebrità, dà credibilità a chiunque ci passi dentro, anche se è un perfetto idiota. Lasciare una fessura aperta in cui possa entrarci anche Cobra di Taranto significa dare a lui la possibilità di esserci, di essere attendibile. Infatti sul suo profilo Facebook Cobra ha fatto l'apoteosi del suo gesto, per nulla pentito, anzi orgoglioso, dice: sono entrato anche io in Rai, ero in Rai con il mio maialino emoticon, comunque c'ero. Ecco, quando la vecchia televisione vuole darsi una ripulita, un po' come quelle vecchie signore si danno una lisciata alla faccia, si riempono la fronte di botox, si danno una gonfiata alle labbra, si fanno le tette stratosferiche, ma c'è sempre quella puzzetta di vecchio che li segue dietro e non se la toglieranno mai di dosso. La RAI ha questa puzzetta di vecchio che non si toglierà mai di dosso, è inutile che cerca di farla moderna. Ecco, mi dà dei segnali intonti, devo parlare agli ascoltatori. Marcello da Taranto, buongiorno. Buongiorno. Eccomi qua. Allora, io chiamo da Taranto, premuto che sono non vedente, quindi sto sentendo quello che è successo. Quindi lei non ha visto il maiale, quindi si è salvato l'anima. No, l'ho sentito dai giornali, insomma. Adesso sto sentendo del maiale, ma c'era scritto qualche cosa? Oltre beh, c'era scritto Dio vicino, che non era proprio l'accostamento più felice, vabbè, diciamo la verità. L'intento era blasfemo, però certo, la forma era talmente smaccatamente fanciullesca e ridicola che Dio ci aveva fatto una risata sopra. Ma a Roma ne ho sentito così tante. No, per quanto riguarda il ritardo della cosa, il ritardo sulla mezzanotte, me ne sono accorto anch'io. Infatti per me, io segnavo il mio orologio del telefonino, segnavo le 23:59. Oh, vede, lei mi dà però lei, scusi, ferma un attimo. Lei mi dice, ogni italiano ha uno smartphone in mezzo a testa, due a testa. Lo smartphone è sincronizzato in rete sempre con il tempo assoluto che regola la vita dell'umanità intera, da qui alle porte dell'universo. Quindi se lei, non vedente, si è reso conto che comunque a mezzanotte non è arrivata col suo smartphone, non credo se ne sia fatto un grosso problema se la televisione era, diciamo, in anticipo. Lei sapeva qual era la vera mezzanotte? Sì, sapevo che non era mezzanotte, in effetti. Mi sono accorto dell'errore che aveva fatto. No, comunque vorrei più puntualizzare su quella bestemmia, insomma. Non sono cose che si fanno, anche perché... No, ma è un discolo. Quel ragazzo la prende per un'orecchia e mettere con la faccia al muro, inginocchiato sui ceci, come facevano i salesiani ai miei tempi. Proprio di Taranto, combinazione proprio da parte mia, quindi... Vabbè, a Taranto diranno bestemmie, come le dicono a Firenze, come le dicono in Piemonte, come le dicono in Sicilia. Anch'io qualche volta bestemmio, però. Ma sì, ma anche a me mi scappa qualche moccolo ogni tanto. Essendo umbro, fa parte della nostra cultura nazionale. Me ne pento quando lo faccio di fronte a altre persone, perché è una cosa brutta, non è bello. Ma non è che si apre il cielo, viene giù un fulmine e il Padre Eterno mi fulmina. Ne pagherò insieme ad altri mille mie colpe il peso quando dovrò render conto a qualcuno delle mie azioni e delle mie parole. O sbaglio? No, ma non è giustificabile il fatto della bestemmia. No, non è giustificabile, lo dico, è un atto di maleducazione, inciviltà. Quindi... Maleducazione in civiltà. Anzi, è la RAI che ha mandato quell'impropelo, insomma. Ma verso che ora l'ha mandato? Ha mandato il dato dell'arco di mezzanotte. Però, guardi, la RAI in questo caso, secondo me, la colpa non è che sia passata la bestemmia, la colpa è avere la velleità di pensare di fare un programma moderno quando in realtà il capodanno in televisione è la cosa più arcaica che esista. volersi aprire al mondo moderno senza averne gli strumenti per gestirlo. Ora le dico, chi si muove nei social, chi si muove nella cultura digitale, sa di piccoli imbecilli come Cobra di Taranto, ne trova ogni minuto. La forza della novità della comunicazione multitask è proprio questa, di saper muoversi attraverso un mondo che è quello che è finalmente, non è un mondo mediato, è un mondo come capita di incontrare quando si vanno in luoghi che non sono quelli che frequentiamo abitualmente e ci accorgiamo che sono pieni di persone violente, di persone aggressive, di persone volgari, di persone irascibili. Beh, il mondo è quello. La cultura digitale fa sì che tu possa muoverti attraverso queste persone, non esserne contaminato, ma riuscire a prevalere su di loro perché sei portatore di senso. Quello che non ha capito nemmeno Umberto Eco quando dice la rete è piena di imbecilli, andrebbe chiusa la rete. Non è così. La rete dà l'esatta misura di quello che è l'umanità. Se la televisione pensa di uscire da questo suo sancta sanctorum e di aprirsi all'umanità, deve riuscire a tollerare, non dico a tollerare, ma a gestire anche il Cobra di Taranto che manda la bestemmia. Sapere porre qualcosa di talmente forte e talmente consolidato nella sua assolutezza di principio che Cobra di Taranto si scioglie come neve al sole. Come mai nessuno mai bestemmia in questa trasmissione? Mai accaduto un pazzo che bestemmiasse? Se poi è accaduto, non è mai stato un problema. Perché, diciamo, le persone vengono attirate dal basso conio e del luogo in cui possono esprimersi. Sentiamo Luca. Luca, buongiorno. Buongiorno. Sì. Io in realtà lascio stare il tema del tempo perché tanto a me lo spumante parte comunque o 30 secondi prima. Sì, ho avuto un eiaculazzo precoce, ma è partito diciamo 20 secondi prima ancora di Amadeus, quindi figuriamoci. Mi ha schizzato fuori, lo so. La domanda che mi sono fatto io quando ho sentito di questo appunto bestemmione passato su Rai 1, noi eravamo collegati con Mediaset, se non sbaglio, perché eravamo un gruppone, quindi stavamo guardando giusto questo conto alla rovescia. Nel tempo esatto in cui è arrivato il bestemmione sono arrivati esattamente 20 sms o 20 messaggi a tutti noi sui nostri smartphone con già la foto di questo bestemmione. Con lo screenshot del bestemmione. Okay. Assolutamente, quindi mi chiedo quanto la Rai abbia goduto poi in termini di Auditel grazie a questo Cobra di Taranto che ha mandato il bestemmione e di conseguenza se magari non è stata effettivamente più una fortuna che uno scandalo per il capodanno della RAI. E dall'altra parte mi ricollega al suo discorso che trovo giustissimo, quando la RAI vuole, il colosso RAI, interfacciarsi con una realtà che è quella magari digitale più veloce, quella dei blog, del Tumblr, dove la bestemmia è uno status, dove la bestemmia è concessa, anzi è voluta spesso perché c'è bassezza, perché comunque magari non c'è per forza rozzità, ma è molto più sdoganata. Sì, però lei che conosce, vedo che conosce bene la materia, lei sa come ci si muove quando uno si trova a contatto con persone che trolleggiano o ti infastidiscono o esprimono un parere al di sopra delle righe. Una persona che sa muoversi negli ambienti di interfaccia e di condivisione digitale sa come destreggiarsi, non è che se ne fa un problema, non è che si straccia le vesti e prende il crocifisso, semplicemente li isola con l'argomentazione, la capacità di argomentare. È la che la RAI non sa argomentare. La RAI apre una saracinesca, fa passare i buoni e passa anche qualche cattivello, ma non sa argomentare il contatto con il mondo che si esprime per quello che è. Non so se mi sono spiegato. Condannare, però è pronto a condannarlo. Quindi, certo, è chiaro, è chiaro. Assolutamente è bassissima, però faccio anche un esempio per ricollegarmi a quel mondo. Di tutte le 20 persone che eravamo collegate, non tutte eravamo dei piccoli troll Cobra di Taranto, ci sono state anche persone, non io, ma di elevata statura culturale e morale, hanno comunque riso, si sono collegati su Rai 1 per vedere se passava un'altra bestemmia. Sì, ma certo, quindi, è chiaro che diventa un elemento, tutto ciò che rompe la regola diventa un elemento divertente, è chiaro, è come vedere le mutande alla contessa per sbaglio con un colpo di vento, fa ridere tutti e tutti vorrebbero star lì. È l'effetto gatto spiaccicato che io coniai decenni fa. Quando lei vede passando in macchina un gatto spiaccicato sulla strada, fa orrore, brutto, di quel gattino lì con le budella di fuori, ma non può fare a meno di seguirlo nello specchietto retrovisore perché è quell'orrore che ci attira. E per la stessa ragione, improvvisamente vedere una sorta di macchia così evidente nella integrità virginale di quella che vorrebbe essere Rai 1 senza mai esserlo stato nella sua storia reale, ecco, naturalmente questo richiama attenzione. Grazie. Patrizia, buongiorno. Buongiorno. La sto ascoltando. Ah, volevo soltanto dire che quello che è successo su questa bestemmia è semplicemente un avanzamento, come ad esempio quando si costruisce un ponte e questo ponte crolla e si viene a scoprire che la sua lunghezza aveva interagito con un vento costante molto debole e quindi si corregge. Quindi quel ragazzo ha semplicemente accoppiato gli emoticon con le parole, creando una bestemmia. Questo non era contemplato. Quindi nessuno è colpevole, soltanto che da ora in poi bisognerà tener conto di questa creatività. Sì, tener conto, oppure dire, se noi ci apriamo al mondo dell'imbecillità, che può naturalmente passare quando uno si interfaccia senza filtro con il mondo intero, dobbiamo essere capaci a gestire anche questo. E la gestione non è semplicemente la censura, mettere un algoritmo che taglia tutte le parolacce, poi taglierà anche tutti i maiali. Ma se io volessi fare una campagna per difendere i poveri maialini innocenti uccisi sotto Capodanno per farne dei cotechini, avrei tutto il diritto di mandare tutti i maialini che voglio, capito? E taglierebbe anche la mia istanza. Quando il principio regolatore è censorio, è antitetico alla civilizzazione digitale. Il mondo digitale vuole che ci sia qualcuno, l'Amadeus di turno, capace anche di gestire e di portare un valore talmente forte, anche il povero cobra che manda il suo maialino. Poverino, fa anche tenerezza, ripeto. Addirittura si è scomodato l'Osservatore Romano sulle moti con maialino di Cobra di Taranto. Nicola, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno signor Nicoletti, sono Nicola Biasucci da Galluccio, in provincia di Caserta. Sì. Beh, la mia riflessione era questa: intanto io Capodanno l'ho passato leggendo un libro tranquillamente dopo la cena con i miei genitori, quindi non ho proprio seguito questa differenziazione di orario che c'è stato poi, di cui si sta parlando adesso. Riguarda talmente poco, ho lasciato soltanto che fosse il mio orologio a definire quando era l'ora di stappare una bottiglia di spumante, giusto per rinnovare gli auguri con gli amici cari e con le persone che ci sono intorno, tutto lì. Per quanto riguarda la bestemmia, guardi, io penso che questo screditi molto chi la fa, indubbiamente, che ci sia molta superficialità e soprattutto forse un pizzico di disattenzione, se non dire un vizio, ma tanta disattenzione da chi è preposto a filtrare queste cose. Si può, lo sa com'è andata, le dico, perché poi sì, l'ho seguita la vicenda. Sono rimasti in qualche maniera sorpresi, loro pensavano di avere un sistema perfetto, computerizzato, con un algoritmo che individuava le parolacce, quindi le tagliava e non le metteva, perché figuriamoci, la RAI era ben sicura che qualcuno avrà tentato, ci sono state un'infinità, centinaia di persone, me li mandano a me gli insulti. Lei pensa, la gente talmente ingenua che manda insulti inenarrabili via SMS, io ce l'ho qui davanti il monitor, in cui c'è anche il numero di telefono della persona che me li manda, e potete chiamarlo e dico: scusa, ma perché dici queste cose? Sono talmente poco consapevoli della loro tracciabilità, diciamo gli stalker col telefonino in mano, che non si tengono conto nemmeno del fatto di essere rintracciati. Cobra di Taranto l'ha messo subito sul suo profilo Facebook lo screenshot della sua bestemmia, fiero di essere riuscito a entrare nel sistema RAI. Quindi non do una grande gravità a questo fatto. È un ragazzaccio che normalmente probabilmente si è sentito emarginato quella notte perché gli amici l'hanno accannato, stava solo a casa, ha litigato con i genitori, insomma il tipico Capodanno sfigato. Passarlo da solo, per quanto si dica, quando uno è costretto a passarlo da solo, è una cosa bruttissima. Sapere che gli altri si divertono, vanno in giro e tu stai da solo, comunque senti i botti, senti l'allegria ti contamina, stare da solo è un problema. Ha mandato questo maialetto emoticon assieme al nome di Dio alla RAI, cioè vediamo che succede, e è passato, e adesso le spese le sta facendo un poveretto che stava lì, uno che si occupa di commerciale, dice: ma posso io anche aver visto il maiale? Mi saranno passati 150 milioni di SMS, capito? Cose del genere. Quindi stiamo facendo una divertente analisi di un fatto che non esiste in realtà, non c'è stata nessuna dissacrazione, non c'è stato nessun sfasamento spazio-temporale. La RAI è già dietro, secondo me, di almeno un decennio rispetto al mondo digitale, quindi il fatto che abbia ritardato di pochi secondi, anticipato di pochi secondi la mezzanotte, e abbia fatto passare l'SMS di un povero troll sfigato ragazzetto di Taranto, non lo trovo qualcosa di gravissimo. Quindi che oggi chiede le teste delle persone per questa sciocchezza, secondo me è un po' esagerato. Mario, buongiorno. Buongiorno Gianluca, guardi, io non so lei, ma quando ho letto sulla stampa che la RAI avrebbe anticipato praticamente di qualche secondo, diciamo così, insomma, c'è la mezzanotte, io ho riso tantissimo, ho chiamato subito un mio amico e lui mi ha detto: ma guarda che è stata una zingarata. cioè, è una cosa incredibile, sembra che circa 5 milioni di famiglie si siano collegate con la RAI. Ho pensato a tutte queste 5 milioni di famiglie che abbiano stappato prima praticamente lo spumante, per me è stata una cosa esilarante. Beh, io trovo che finalmente è accaduto qualcosa, in un giorno in cui non accade mai nulla di diverso. Guardi, io stavo in redazione quando stanno mandando le lettere al Viminale per avere il giorno dopo l'elenco delle persone a cui sarebbero scoppiate la mano, e noi facevamo le previsioni, ci saranno 4 dita scoppiate, c'è stato anche un morto purtroppo, una cosa grave, ma è talmente prevedibile anche nella sua abiezione il rituale capodannesco pubblicamente celebrato, che finalmente c'è stato qualcosa di diverso. Pensi, noi ironizzavamo all'ora di colazione del 31 sulla vicenda di Fantozzi, sui capodanni anticipati, e poi è accaduto ciò che tutti temevano. Ma lei pensi che la RAI per tanti anni, e anche Canale 5 per tanti anni, il rituale del capodanno lo registrava giorni prima, poi lo mandavano sincronizzato proprio nell'esatta mezzanotte, stappassero la bottiglia, ma era tutto registrato. Perché? Perché i divi della televisione non gli andava di perdere tempo davanti alle telecamere, poi non c'era il culto della diretta. E non è mai successo qualcosa del genere. Il fatto che oggi, nel momento in cui siamo convinti di attraversare le meraviglie dell'universo digitale, in cui per noi non ha più ragione l'equazione limitativa dello spazio e del tempo, accade l'anticipo del Capodanno, a me fa molto sorridere. Nicola, buongiorno. No, io... Ah, Nicola, ha parlato a Mario. Mario, scusate, Mario. Mario. Ho già fatto, grazie. Ha già fatto anche lei, avete fatto tutti fatto. Bene, allora andiamo avanti. Ma lei, Mario, aveva detto che comunque è stato divertente. Ma è stato fantastico, guardi. Cioè, ma secondo lei si immagina 5 milioni di famiglie che sta lì e stappano prima? Cioè, per me è uno scherzo fantastico. No, tra l'altro lei pensi che 5 milioni hanno stappato prima, ma altrettante più o meno sono quelle che hanno sintonizzate su Canale 5 che hanno aspettato. Io immagino quello che accadeva nei condomini promiscui, in cui, diciamo, le pareti sono di carta velina. Tutti pronti con lo spumantino in mano, col nonno pronto, l'hanno svegliato apposta che stava addormentato, le signore tutte illustrini, tutte che erano andate dal parrucchiere la mattina, siamo messe la giarrettiera rossa, gli uomini con le mutande rosse, i bambini che piangevano, il cotechino pronto, le lenticchie così, e senti che dall'appartamento vicino già hanno stappato. E tu vedi davanti che Canale 5, che ancora non è ora. Beh, è un momento fantastico, è come quando su Matrix passa il gatto e ci si accorti che qualcosa non funziona nel sistema. Trovo una cosa bellissima. Carlo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Io sono d'accordo sul fatto che sia stata più una cosa divertente che non un esempio di non efficienza da parte della RAI, ma è anche vero che chi paga l'abbonamento si aspetta che un'azienda come questa, che si fa pagare profumatamente quei servizi che poi non eroga... E poi adesso per forza anche in bolletta va pagato comunque. Ecco. Sia di una precisione inappuntabile, che i suoi professionisti vadano lì non solo per essere pagati, ma per dare un servizio pubblico. Il fatto stesso che la RAI si sia fatto scappare un giornalista come lei, che pur non essendomi simpatico devo ammettere che è veramente una persona capace, la dice lunga su come è l'andamento. Ma un attimo di stato del SMS. Mi ha fatto scappare cosa? Non ho capito l'ultimo concetto. Ho capito che non le sono simpatico, vabbè, ci sta tutte. No, io ho detto che lei certe volte non è simpatico, ma a me è simpatico. Beh, mica è un obbligo essere simpatici. No. Però il fatto che si sia lasciata scappare un giornalista come lei, e non sto lì a fare la Ah, scappare io dalla RAI? Ah, beh, sì, vabbè. Certo. Vuol dire che la RAI è comunque impostata per mandare avanti quelli che non sono capaci, perché a Canale 5 questo non sarebbe mai successo, pur avendo la metà dei dipendenti che ha la RAI. Ma diciamo, la RAI è stato un grande serbatoio di genialità, proprio la RAI che noi consideriamo più antiquata. La missione era guardare ciò che c'era di nuovo attorno e celebrarlo portandolo in televisione. Oggi la RAI semplicemente raccatta ciò che è già vecchio, già che è una ciabatta sfondata, e lo porta come novità perché non vuole rischiare. È il terrore del rischio che frena questa azienda, e come vede quello che viene già considerato un rischio, aprirsi agli SMS, nonostante ci siano 20 saracinesche, poi fa passare la bestemmia. Quindi non è esattamente questo, è che quello che ha detto il suo collega prima è giusto, pagando il canone, pagando un servizio uno vuole l'inappuntabilità, cioè l'orario di mezzanotte preciso, ma guardate che servizio pubblico non è i treni che passano in orario e Amadeus che stappa a mezzanotte, sarebbe di dare agli italiani qualcosa di segno un po' diverso, con un'equazione di leggermente più articolata che fare Papaleo che parla da Matera e fa il Lucano, capito? O fa questi capodanni sempre uguali con centinaia di persone che ci lavorano sopra per ridare sempre la stessa minestrina riscaldata. Grazie comunque. Filo. Sì, buongiorno Nicoletti, buongiorno. Senta, la cosa è questa. Allora, sul tempo, il concetto di tempo è un dato convenzionale che contiamo dalla nascita di Cristo e gli altri invece fanno da Maometto la foto in Egira, no? Ecco, quindi il conteggio... Aspetti, mi arriva notizia che forse l'emoticon... Il conteggio sballato. No, aspetti, no, sull'emoticon sul maialino di cui stiamo lavorando... È circolato in rete, ma pare potrebbe essere addirittura un fotomontaggio di qualcuno che l'ha appiccicato in rete. In realtà il signore di Taranto ha proprio scritto la parola con le lettere e quindi c'è stato proprio un errore anche del sistema che non ha letto la parola e della persona che non l'ha letta. Il maialino non ha appiccicato dopo, ma questo non abbiamo visto. Non esiste una verità assoluta quando la realtà è sovrapponibile. Quando noi vediamo, non avendolo visto in diretta, avendolo subito la RAI cancellato da tutti i server del regno, abbiamo visto quello che sta girando in rete. In rete sta girando un maialino appiccicato sopra il sottopancia, che l'hanno appiccicato probabilmente, e su questo abbiamo costruito una realtà parallela che non esiste. Non esiste l'emoticon usato da Cobra di Taranto. Ci abbiamo tutti creduto fino adesso. Perché? Perché è una realtà oggettiva, inoppugnabile, lo vediamo in televisione, lo vediamo sul monitor e via dicendo. Vede di cosa stiamo parlando e quanto è complesso. Riprenda il filo del discorso. No, il filo del discorso è questo. Allora, dell'emoticon non lo considero minimamente. Allora io parlo su comunque sia, l'intenzione è la stessa. O maiale disegnato, maiale scritto, è la stessa intenzione. Ma non parlo di quello, io parlo della signora D'Urso, la volgarità del maiale, io non l'ho neanche vista. Ma D'Urso stava sull'altro canale, però scusi, non parliamo della RAI. No, mi scusi, ma io dico, allora, i due punti sono il tempo sballato sulla mezzanotte e la volgarità del maiale. Allora, il tempo sballato è una convenzione, la misurazione del tempo, tant'è che noi lo contiamo dalla nascita di Cristo e gli altri lo contano dalla fuga di Maometto in Egitto. Questo, appunto, cioè, e già quello è una, a pioparsi al minuto avanti e indietro è veramente da gente retriva. Punto. E l'abbiamo secondo, detto. Volgarità numero due è la signora D'Urso che pasteggia con il Pimpin, l'uomo più piccolo del mondo, e lo fa a depositare sul suo seno, e questo guarda. Ma è successo parecchio tempo fa, però mi pare. Sì, certo, ma allora noi cosa vogliamo fare? Vogliamo l'ultima sconcezza in ordine di tempo? Questa è avvenuta, come il maiale di cui lei mi parla, di cui io non so nulla. Allora, cosa diciamo? Se siamo sul pezzo, diciamo che la volgarità e la bestemmia ci accompagna, perché siamo in questa... Però guardi, Filo, purtroppo la devo segare perché arriva la sigla, ma lei dice esattamente quello che era la nostra tesi. La televisione in sé è già qualcosa fuori del tempo, è già qualcosa in sé volgare, e quindi evidentemente non ci stupiamo, accade semplicemente quello che era già una profezia che continua ad autoavverarsi. Grazie a tutti, a domani.